Linee d'ombra di Matteo Caccia. Nella puntata speciale del sabato di Linee d'ombra vi raccontiamo la nostra storia seriale, cioè la storia di un giovane uomo che abbandona la propria casa, abbandona la propria città a nemmeno 18 anni e scappa in Francia, dove lo costringono quasi forzatamente a entrare nella legione straniera. In una corsa inenarrabile verso l'abisso, Antonio Cocco, il protagonista di questa storia, si ritrova dapprima in Maghreb, in Algeria, poi arriva a Gibuti e in questi episodi sta raggiungendo l'Indocina. E che posso dire di questa giornata? Se non che questa notte l'asma mi ha dato molto fastidio. Ho chiuso occhio a stento per essere risvegliato dopo una mezz'ora circa. Forse dipende dal fatto che fumo troppo, ma qui ti invogliano loro. Ci hanno dato 7.000 franchi e 40 pacchetti di Bastos, tabacco quasi biondo. E gli americani costano 45 franchi il pacchetto. Capisci bene che ti viene voglia a fumare e a bere molto. Ora però smetto. Ho smesso per un mese e mezzo di bere qualunque alcol ed ora riprenderò con l'aggiunta di non fumare assolutamente. E ci riuscirò anche perché in Indocina il bere e il clima rovinano molto facilmente. Niente di nuovo, nessuna isola o scoglio in vista. Penso però che ben presto avvisteremo Malta. Io sarei in tentazione di buttarmi a mare, ma di giorno è impossibile e di notte non vedi nulla, mai. Poi i controllori sono armati e se ti pigliano ti becchi 12 o 16 mesi di lavori forzati. Ora sono considerato in zona di guerra. Se poi fai questo in Indocina, figurati, ti mettono al muro. Ma porco Giuda, possibile che debba sempre cadere su questi discorsi? Ho paura che la legione mi abbrutirà completamente. Le sue aspirazioni, il suo essere irrequieto non era una cosa che era nata soltanto la settimana prima di scappare, perché lui ormai si sentiva stretto, probabilmente appunto dopo la guerra si sentiva cresciuto, lui voleva andare a lavorare. L'anno prima Antonio l'aveva fatto in un collegio vescovile a Vittorio Veneto. I principi di solidarietà, amicizia, di giustizia, di aiutare l'altro, eccetera, esatto. sono delle cose esatto. Che sono assolutamente, fanno parte del più profonda di ciascuno di loro, e lo hanno fatto per tutta la vita, con varie forme, in varie cose, però c'era. È sera, chi ce la fa più a dormire? Tra l'asma, che mi dà molto da fare, e per giunta ho riletto un po' di lettere che ho scritto. Sono stata una mazzata per me, una tremenda mazzata. Tutti i rimorsi, le nostalgie sono ritornate a galla e mi sono sentito chiudere il cuore. Ogni giorno che passava si rendeva sempre di più conto in quale luogo fosse finito. E quindi, così come nei momenti di maggior disperazione, scrive: ieri durante un'esercitazione pensavo di mettere il petto davanti alle cose e morire, di suicidarmi in questo modo. Così ci sono i momenti in cui parla di espiazione. Secondo me non è un fatto dovuto alla cultura cattolica di famiglia, alla cultura di base. Come non piangere davanti a una lettera di mamma in cui sento tutto l'amore che ha per suo figlio sperduto nell'Africa, dove si vede palese la grande fede? Come non piangere dinanzi alla disperazione di un padre quale tu sei, babbo? A dei fratelli che si vede che cercano il tutto per consolarmi e chiedono cosa possono fare per me, come posso dimenticare questo, come posso far tacere quella voce interna che mi grida: vigliacco, hai rovinato tuo padre, tua madre e tutta una tua famiglia. La sento, sai, questa voce, ed è prepotente. E certe volte la sento soprattutto qui, in nave, dinanzi all'immensità del mare, dove ti senti piccolo piccolo e molto avvilito. Certe volte mi verrebbe da scagliarmi contro tutti, non per me, ma per voi, per quello che avete fatto per il mio rimpatrio. Possibile che Dio non abbia ascoltato le preghiere d'un cuore straziato come quello di mamma e non abbia favorito per niente il tuo enorme lavoro, babbo, i sacrifici che Gianni e Lucia, due povere creaturine innocenti, hanno fatto per me. Ti giuro, babbo, che quando Germano mi disse dei sacrifici di Gianni e Cio, mi sono sentito commuovere. Le preghiere pure dei miei fratelli, Ciccio, Marisa, Anna e il resto, credimi, non chiedevo il mio rimpatrio a Dio per me, per liberarmi da questo inferno, ma lo facevo per voi. Potessi dare la mia vita laggiù in Indocina per fare ritornare la serenità a casa, per far togliere dalle vostre menti il pensiero che Tony è in pericolo. Non ci penserei due volte, anzi, lo farei con piacere. Almeno spero farete in santa allegria i matrimoni, le lauree e, perché no, i battesimi. Ti avevo mandato i soldi anche per fare il regalo alla Marisa. Sì. Mi ha regalato una borsa. Una borsa. Che è rimasta famosa nel tempo, che nessuno è più riuscito a trovarla, la Marisa l'aveva nascosta. Nessuno l'ha vista? Dopo la sua morte l'hanno anche cercata i figli, ma non l'hanno trovata. La borsa rossa, all'interno della storia di tutta la famiglia Cocco, diventa qualcosa a cui aggrapparsi per mantenere vivo il ricordo di Tony. Lui a Parigi aveva un conto dove faceva versare la paga. Lui scrive al padre di ritirare, mi pare, 10.000 franchi, non mi ricordo, lo dice in una lettera, di ritirare i soldi per fare un bel regalo per il matrimonio. Esiste una borsa rossa che lui fa regalare sempre alla sorella Marisa, quella che doveva sposarsi, e che un figlio, ricordandola bene, l'ha cercata, ma tra un trasloco, cosa e l'altra, è sparita. Ma dell'esistenza di questa borsa rossa ne erano a conoscenza anche i figli, i miei cugini, i figli di mia zia Marisa. Questa borsa non è spuntata, anzi sono andati a vedere in un posto, è sicuramente qui, ma poi con traslochi, chiusura di case, cose eccetera, questa borsa non è mai saltata fuori. Una cosa che spero proprio è nella promozione di Ciccio. Starei male saperlo bocciato. Credo basti in casa Cocco la bocciatura di Tony. Ho avuto un collasso religioso al mio imbarco in un momento di debolezza quando l'asma più mi molestava, ma ora mi sono ripreso, non ancora del tutto, ma lo spero presto. Avrei bisogno di vostre notizie, specialmente di Germano. Sarebbero molto utili per darmi una mano. Beh, mi sono un po' sfogato. Ora mi sento più libero e leggero e spero di dormire in pace. Buone nuove, domani a Port Said potrò imbucare la lettera. Vi scriverò così il mio indirizzo a Saigon e voi mi scriverete subito, così potrò averla al mio arrivo. Scrivete subito per avion, così quando arriverò laggiù troverò posta. Non posso scrivervi l'indirizzo perché si dice che finiremo a Tonchino. Vi abbraccio tutti. Tony. Djibouti, 21 ottobre 1952. Carissimi, voilà a Djibouti. E cosa ti posso scrivere del mio viaggio? Dal punto di vista, diciamo così, turistico è meraviglioso, ma se penso a dove mi porta questa nave, tutte le bellezze si sfumano. A Djibouti sono sceso, io col chef, non gli altri naturalmente. L'ho visitata e ho acquistato qualche ricordo egiziano che vi spedirò a casa. Spero permetterete che vi mandi dei ricordi, almeno comincerò dai tre più piccoli. Mi sembrerà così di sdebitarmi un po', perché tra le altre ho dei veri debiti materiali con i fratelli e con te papà, in particolar modo. Non parlo di quelli spirituali. Teniamo presente però che lui ha perso più di una volta praticamente tutto. Cioè, ha perso tutte le lettere del padre, ha perso anche quelle che stava scrivendo, cioè perché è finito sotto acqua, in trincea o in altri posti, per cui mi pare strano comunque se lo scrive lui, non me lo ricordavo, e se nel viaggio verso l'Indocina lui compra un souvenir in Egitto, che già mi pare strano, comunque sicuramente non l'ha spedito. No, lui ha spedito sempre fotografie, ritagli di giornale con appunti, sì, suoi, considerazioni sue, banconote vietnamite per far vedere com'era la lingua, com'erano diverse dalle nostre, eccetera, eccetera. Ha spedito anche cartoline. La città dunque è senza pretese, ma molto caratteristica, piena di piante grasse, palme, datteri. I 150 chilometri del canale di Suez hanno potuto farmi un'idea di cosa voglia dire deserto. Penso che per tutto il versante arabico non ho visto una palma. Levata via qualche capanna all'inizio e alla fine al centro dove c'è il lago, per il resto sabbia sempre. Sembrava un mare giallo con uno sfondo di montagne. Dall'altra parte si vedeva di già lo zampino inglese, palme, strade asfaltate, macchine, casette, lavori in corso, grandi colonne di dromedari con arabi sfarzosamente vestiti. Avessi una macchina fotografica, rimarresti a bocca aperta. Indiscutibilmente tutte cose belle, ma che lasciano completamente indifferente. Suez è pure una città che molte cittadine balneari europee possono invidiare. Ci sono delle case con 20 piani. Dei 3.000 chilometri, credo, del Mar Rosso, non posso dire granché. Ho visto un sacco di delfini, due o tre pescecani, mamma mia che impressione. Sono proprio paurosi. Ce n'era uno lungo 5 o 6 metri e quando mostrava la bocca mi sentivo i crampi allo stomaco. Verso il golfo, se così si può dire, il golfo di Gibuti, poi, siamo stati quasi assaliti dai pescecani, molti e grossi, e vedessi le leggere imbarcazioni dei neri come passeggiavano tranquille tra di loro e quei beduini mostravano i loro bianchi denti tra tutto il nero fumo della pelle. Anche Gibuti è bella. Ed oggi uscirò con lo chef a visitarla meglio. Ma ormai comincio ad essere stanco della nave. Sono 10 giorni che si naviga e non ne posso più. Mi sforzo ad interessarmi in cose che 6 mesi fa mi sembravano un sogno, ma mi annoio subito, le trovo inattraenti. Potessi ritornare a Venezia, tra le vecchie mura della mia casa, giocherellare con Gianni in rimessa, potessi dormire alla sera sul mio letto, ritornare a scuola, sedermi nel mio banco, porca miseria come rimpiango quei tempi. Certe volte mi viene da ridere quando dico agli amici che rimpiango quei tempi. A 19 anni di solito non si può dire questa frase. Compirò a proposito 19 anni in Indocina. Mi sembra poco. L'unica curiosità che ho ancora è di vedere com'è fatta questa bestia tanto decantata e com'è là la vita. Chissà quanto riso ci faranno mangiare, ma almeno la finiranno col couscous. In 3 mesi che sono in Africa l'avrò mangiato 150 volte. Forse vi sarete annoiati di questa pappardella mal scritta, ma se mi metto a cambiare discorso è finita. Penso a cose che credo sia meglio dimenticare, altrimenti sto male e faccio star male voi. Una cosa spero: che mio padre non sia venuto in Algeria. Non potrei levarmi via più un simile rimorso. Sarebbe un tormento per me che mi ossessionerebbe dovunque. Ecco, sono ritornato da capo. Ormai credo di avere detto tutto. Penso non vi interesserà sapere che per mangiare devo fare la coda di un'ora, per bere idem, che per lavare le camicie e i pantaloni dello chef lo devo fare sulla mia gamella dove mangio, perché l'acqua dolce è solo per bere. Perciò, sperando che tutti stiate bene, anzi benissimo, vi abbraccio con tanto affetto. Tony. Linee d'ombra. Ecco, grazie a questo viaggio in nave, Antonio Cocco sta raggiungendo uno dei posti più pericolosi al mondo in quegli anni, dove si lotta una guerra sanguinosa tra francesi e vietnamiti. I vietnamiti vogliono liberarsi della presenza coloniale francese, i francesi tengono duro e quindi mandano le loro truppe, e i primi a mandare sono proprio i militari della Legione Straniera. Sabato 1 novembre 1952, carissimi papà e mamma, vi ringrazio infinitamente del radiotelegramma. Sono caduto dalle stelle quando il tenente è venuto giù e personalmente me l'ha consegnato. Con quell'affare ormai se ne sentono di tutti i colori a bordo. Sono stato la questione del giorno per parecchio tempo. Non potete farvi un'idea di cosa se ne sente sul mio conto. Tony manda questa cartolina con scritto: qui c'è la mia cuccia, e segna un oblò. Questo telegramma è stato mandato dal nonno, ma infatti firmato mamma e papà, a radio, guarda, poi troviamo il file, però se tu leggi: legionario Antonio Cocco, piroscafo... Legionario francese, Antonio Cocco, piroscafo francese Athos II, Roma Radio, stiamo bene, Ciccio promosso, pensiamo di sempre, coraggio, baci, papà. Mamma. Tra 2 giorni metterò piede a Saigon dopo 24 giorni di nave. Sinceramente non ne posso più. Sì, è vero, tutto è molto interessante. Ho visto Colombo, le isole della Malesia, le famose canoe con i sostegni da una sola parte, quelle che si vedono nei giornaletti a fumetti, e un sacco di altre cose interessanti, ma sono stanco lo stesso e sia quel che sia, spero di arrivare presto in Indocina. Cominciamo bene intanto. Hanno destinato 40 tipacci per la difesa della nave quando arriviamo, e ci hanno pure armati. Io non so ancora rendermi conto di tutto questo che accade, mi sembra ancora impossibile che debba combattere. Non so se capirete questi sgorbi, ma credete che è quasi impossibile scrivere. Dopo Colombo abbiamo avuto sempre mare molto agitato e pioggia. Fa veramente impressione il mare quando ha la luna storta. Ciò non toglie che sia meraviglioso. Sono molto ansioso di sapere come stanno le cose a casa e purtroppo dovrò ancora attendere molto. Spedirò questa a Saigon, dove ci metterò un indirizzo provvisorio, ma in qualche posto mi manderanno. Spero non a Tonchino. Là potrò averle ugualmente. Le cose a casa come vanno? Spero bene per tutti. Sono molto contento per la promozione di Ciccio, detto tra noi però mi ero convinto che ce la faceva. E gli altri? Promossi? Aldo si è laureato? I confetti? Quando arrivano? Guardate morosi che quando torno a casa voglio essere zio, eh? Come vedete ce ne avete da scrivere. E se in Africa mi facevano felice le vostre notizie, ora in Indocina più che mai. Vi scriverò più ampiamente nella mia prossima e sono molte cose che devo dirti e che vorrei sapere. Per il momento vi abbraccio e vi bacio. Tony. 5 novembre 1952, Saigon. Carissimo papà, non c'è più niente da fare. Ti scrivo in fretta perché può darsi che partiamo per Tonchino e poi per noi oggi stesso o domattina. Pensa, io sono il solo di tutti gli italiani che sono arrivati qui a partire. Non so perché, so solo che finirò proprio in prima linea, ma credo sarai già al corrente di come stanno le cose qua giù. Mio padre comunque leggeva tutti i giornali, quindi da quando, probabilmente subito dopo Da Nang, quando è cominciato la parte finale della guerra, era finita la guerra di Corea, perché anche questo ha contribuito a nascondere quello che succedeva in Vietnam. Lui ha cominciato a occuparsi, quindi ogni tanto Tony gli dice: ah, che bravo che sei, sai le cose meglio di me. Poi c'era questo fatto micidiale, secondo me, per cui non gli avevano detto dove si trovavano. Basta pensare che faremo il viaggio in aereo. Credo sia meglio che tu scriva anche questa lettera a macchina e di aggiungere due righe per mamma. Io proprio non mi sento in grado. La sua lettera mi ha troppo toccato e la mia risposta la abbatterebbe. Che la legione straniera, corpo d'élite delle forze armate francesi, fosse un inferno o comunque un luogo dove venivano, un corpo dove venivano arruolati anche, non solo per carità, ma anche i disperati di mezzo mondo, sì, io credo che loro lo sapessero, che non tutti probabilmente, forse le sorelle e i fratelli più grandi penso proprio di sì, non lo so Giovanni, Gianni, non lo so la madre. Che sfortuna. Non bastava quello che è accaduto nella mia fuga, che mi avessero ancora per l'ennesima volta difeso dagli amici, ma anche che mi spedissero nel posto più pericoloso. Questo proprio no. Dal canto mio sono convinto che non ti vedrò mai più. Me lo sento. E bada che è terribile e mi fa soffrire. Ti scriverò dal nuovo posto con l'indirizzo. Ti ringrazio infinitamente per quello che hai fatto. Ho avuto la vostra lettera qui. Bacio tutti. Di loro che li ricordo. Ti abbraccio. Tony. Just had some kind of mushroom, and your mind is moving. Seguitemi questa puntata che potete riascoltare quando volete sul nostro sito, sul sito di Radio 24, la pagina di Linee d'Ombra. Vi ricordo che potete mandarci la vostra storia di Linee d'Ombra, la vostra storia con un confine nel mezzo, a lineedombra@radio24.it. Noi torniamo lunedì alle 15 puntualissimi per raccontare storie, che rimane il modo migliore per conoscere il mondo. Viva!